giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La battaglia a colpi di bastone fra afghani e pakistani a Trieste, fermati sono 7, la lotta per il predominio nello spaccio di droga. Tirso, arrivano gli arretrati della cassa integrazione, questa mattina presidio dei dipendenti davanti alla prefettura, resta incerto il futuro dell'attività. La riforma su giudizi sintetici alle elementari e voto di condotta alle medie divide gli operatori della scuola. C'è tempo fino alla fine dell'anno scolastico per adattarsi alle nuove disposizioni. Prezzo del latte in crescita, in poche settimane l'incremento ha superato anche i 50 centesimi. Buona notizia per i produttori, meno per i consumatori. Porcia, il punto sui restauri di Villa Correr Dolphin, a 2 anni dall'inizio dell'intervento, in corso il secondo lotto di lavori, la pulizia degli affreschi. Sport basket, Stefano Bossi lascia la pallacanestro Trieste, giocherà in A2 con Ordi Nuovi. In A2 Udine e Cividale sulle ali dell'entusiasmo verso il derby di mercoledì. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e da Razzani. Sono 7 le persone identificate dopo la rissa fra afghani e pakistani ieri sera in Largo Barriera a Trieste. Gli investigatori cercano nel mondo dello spaccio di droga per risalire alle cause del violento scontro nel quale alcune persone sono rimaste ferite. Sono preoccupato, questa zona sta cambiando, fa paura. La sera, quando esco dal negozio, mi guardo alle spalle. All'indomani della rissa tra stranieri in Largo Barriera a Trieste, chi gravita della zona non parla d'altro. Le persone a microfono raccontano volentieri episodi di microcriminalità o vandalismo a cui hanno assistito di recente. L'altra sera, rincasando in garage multipiano dove tengo l'auto, ho visto intrufolarsi delle persone, sostano dentro, non so poi cosa combinino. Un tabaccaio di via Carducci racconta che per 2 volte sono entrate a rubare dei gratta e vinci per poi scappare. L'insicurezza percepita è evidente, ma i numeri della rissa di ieri sono stati ridimensionati dalle forze dell'ordine. Non sarebbero infatti 20 gli stranieri coinvolti, ma 10, di cui 7 già identificati, 2 afghani e 5 pakistani, tutti adulti tra i 35 e i 40 anni, alcuni sono regolari sul territorio, altri migranti in attesa di regolarizzazione. C'è chi è residente a Udine, sarebbe arrivato in auto, ma non parlerei di spedizione punitiva, fanno sapere dalle forze dell'ordine. Potrebbe essere una rissa scoppiata per futili motivi, insulti tra diverse etnie o soldi avanzati. Droga? Chiediamo. Non abbiamo elementi per dirlo, spiegano gli inquirenti. Meno di 24 ore prima della rissa, il questore di Trieste Pietro Ostuni alla conferenza stampa di bilancio di fine 2024 aveva parlato di aumento dell'insicurezza percepita anche a causa della presenza massiccia di stranieri e di fatti di microcriminalità a loro correlati. Piazza Garibaldi, Largo Barriera, Piazza Goldoni da tempo sono zone sorvegliate speciali, ma questa sensazione di insicurezza al momento non impatta nel mercato immobiliare, spiegano dalle agenzie. Siamo a 2 passi dal centro e quindi la zona resta attraente. Tanti capitali dall'estero che arrivano per acquistare appartamenti da trasformare in bed and breakfast. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il mondo del lavoro con l'avvertenza Tirso. A Trieste questa mattina un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori sotto la prefettura. Uno dei nodi è stato risolto, arrivano i soldi arretrati della cassa integrazione. Resta invece incerto il futuro per i 160 dipendenti. I soldi della cassa integrazione per i 119 lavoratori della Tirso sono in arrivo, almeno quelli di novembre. Il ritardo nei pagamenti è stato causato da un errore da parte della stessa Tirso nella comunicazione dei dati all'INPS. Ritardo che ha aggravato le difficoltà economiche dei dipendenti dello stabilimento di Muggia, che si sono riuniti in presidio davanti alla prefettura a Trieste. Presidio organizzato dalla CGIL. Massimo Marega, CGIL Trieste. Il tema vero è che questi sono lavoratori che sono stati esposti per un anno ad una crisi lunga che non ha ancora una risoluzione dal punto di vista tecnico. Certamente aggiungere anche i ritardi nei pagamenti della cassa integrazione espone questi lavoratori a situazioni di gravose difficoltà. Con una nota, la UIL, che ha avuto le stesse rassicurazioni sul pagamento delle spettanze, spiega di ritenere la direzione dell'INPS il luogo adeguato ad affrontare tali problematiche ed ha scelto di non partecipare al presidio volendo evitare strumentalizzazioni a scapito dei lavoratori. Per quanto riguarda la vendita della Tirso, invece, dopo l'annuncio da parte del presidente di Confindustria regionale, Zamò, di una trattativa con un imprenditore veneto in via di risoluzione al 99%, non ci sono ancora novità. La CGIL, inoltre, vuole tenere i riflettori accesi sulla crisi delle aziende manifatturiere triestine. Abbiamo diverse crisi presenti sul territorio, Tirso, Flex, ma anche alcune imprese dell'indotto Varzila. Ci sono alcune questioni che si apriranno a breve, ad esempio la fine dell'accordo di programma sul tema della farriera. Ci sarà da ridiscutere e penso che questo tema vada preso in mano in questa città. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono stati consegnati i lavori per il potenziamento della barriera di Portogruaro sulla A4, nodo strategico dove si concentrano i passaggi dei veicoli e dei mezzi pesanti lungo l'asse est-ovest dell'Italia e dell'Europa. Il cantiere prevede fra l'altro l'allargamento con 3 nuove piste del casello, il rifacimento della pavimentazione della barriera, l'estensione della pensilina di copertura delle piste, il prolungamento della passerella pedonale per l'attraversamento del piazzale e per l'accesso alle piste di esazione, la realizzazione di un nuovo fabbricato sul lato nord-est del piazzale e di un nuovo piazzale di servizio in cui verrà spostato il punto neve per le emergenze invernali. Le attività si svolgeranno per fasi durante le quali il casello risulterà sempre funzionante, garantendo un minimo di 2 piste in entrata e 4 in uscita, di cui 2 a telepedaggio per ogni direzione. Il quadro economico è di 13 milioni di euro e la conclusione dei lavori è prevista nel 2026. Con l'anno scolastico in corso entrano in vigore alle scuole elementari e medie alcune novità su valutazione e voto in condotta nelle primarie e coi giudizi sintetici, mentre alle medie cambia appunto il voto in condotta, bocciatura con un voto inferiore al 6, una riforma accolta positivamente in regione, seppure con qualche perplessità da parte di dirigenti scolastici e docenti. Alla primaria addio ai giudizi descrittivi da avanzato in via di prima acquisizione, tornano già dal secondo quadrimestre quelli sintetici da ottimo a non sufficiente, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti per ciascuna disciplina. Alle medie invece cambia il voto in condotta che sarà espresso in decimi. Gli studenti che otterranno un punteggio inferiore a 6 decimi non saranno ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Le scuole entro l'anno scolastico in corso dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, precisa la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Beltrame, che ne condivide gli obiettivi. Una riforma, ha dichiarato il ministro dell'istruzione Valditara, che punta a un sistema educativo più chiaro e trasparente, migliorando la comunicazione con le famiglie che per prime lo avevano richiesto. Il voto in condotta alle medie mira invece, nelle intenzioni del legislatore, a contrastare violenze e bullismo, promuovendo responsabilità individuale e rispetto delle regole, col diffondersi anche in regione di comportamenti a rischio fra gli studenti, assolutamente necessario per Beltrame responsabilizzare anche i genitori attraverso una nuova alleanza educativa. Bene la stretta sul voto in comportamento anche per la docente Marcone, promotrice di progetti antibullismo, per la quale la nuova norma pone un limite oggi necessario. Dal 2008 si tratterebbe del quarto cambiamento, rammenta il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi Gervasutti, che pur condividendo l'obiettivo ministeriale di semplificare la comunicazione con le famiglie, sottolinea i rischi di cambiamenti frequenti in un ambito delicato come la valutazione, auspicando un approccio di lungo periodo. Quanto alla possibilità di bocciare con un voto in comportamento sotto il 6 alle medie come già alle superiori, Gervasutti evidenzia l'importanza di definire chiaramente i comportamenti da censurare e sottolinea la necessità di mantenere l'intervento disciplinare come momento educativo e non meramente punitivo. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. In poche settimane è arrivato a costare più di 56 centesimi al litro. Da tempo il prezzo del latte è in crescita, una buona notizia per i produttori, meno per i consumatori. Tutto dipende dal classico meccanismo della domanda e dell'offerta. Il costo aumenta perché c'è meno latte in circolazione. Una carenza che, come spiega Renzo Livoni, presidente dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, è dovuta a diversi fattori. In primo luogo alla diminuzione delle materie prime dell'anno scorso, come orzo e mais, che ha ridotto la produzione di latte per i singoli capi, e poi e soprattutto alla sparizione costante dei piccoli allevatori della regione. L'aumento dei costi in generale, ora per mantenere una famiglia servono 70 capi rispetto ai 40 degli anni precedenti, e la mancanza del ricambio generazionale stanno facendo chiudere numerose piccole aziende, un fenomeno che non si limita al Friuli Venezia Giulia ma che ha dimensioni internazionali e si riscontra persino in Baviera. A tutto questo si aggiunge il problema dei trasporti, che ha visto triplicare il prezzo delle operazioni. Per le aziende è diventato antieconomico andarsi a rifornire dai piccoli. Meglio diminuire i viaggi e privilegiare le grandi realtà produttive, condannando gli altri alla chiusura. E ora uno sguardo al tempo, cielo sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 4 gradi e 5 decimi, a Gorizia 6 gradi, a Udine 5, a Pordenone 4, a Forni di Sopra 2 gradi e mezzo, a Piancavallo 1 grado e mezzo, a Tolmezzo 5 decimi di grado, a Tarvisio meno 2 gradi e 5 decimi, a Sappada meno 8 gradi, sul Monte Doncolà meno 3 gradi e mezzo, sul Monte Lussari meno 8 gradi, a Lignano e Grado 6 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Oggi avremo cielo in genere sereno, sulla costa e sulle zone orientali soffierà ancora bora da moderata a sostenuta, forte a Trieste con possibili raffiche molto forti. In quota sulla zona montana soffierà vento da sostenuto a forte da nord-est. E ora andiamo a Porcia, dove è in corso il complesso restauro di Villa Corrèa Dolfin. Abbiamo fatto il punto a 2 anni dall'inizio dell'intervento. Riemergono gli antichi affreschi di Villa Corrèa Dolfin a Porcia, con i paesaggi, le scene di musica e teatrali, e nella sala del caminetto anche la scoperta di un affresco raffigurante i simboli degli antenati, il Papa Corrèa e il Doge Dolfin. La pregiata villa seicentesca è oggetto di una ristrutturazione del valore di 4 milioni di euro finanziati dal Ministero della Cultura. Il sindaco di Porcia, Marco Sartini. Una prima parte già finita, abbiamo sistemato il tetto dalle infiltrazioni, abbiamo ricucito le murature che tendevano ad aprirsi. Adesso in questo secondo lotto, con un importo lavori importante, vogliamo pulire gli affreschi, consolidare le murature, rifare gli impianti e quindi ridare nuova vita a un edificio storico molto importante per Porcia e per tutta la comunità. La responsabile del servizio lavori pubblici del comune di Porcia, Giorgia Romanin. I lavori di pulizia e restauro dell'affresco probabilmente termineranno attorno al mese di febbraio, per poi proseguire con gli interventi di consolidamento edilizio e tutti gli altri interventi che riguarderanno poi gli impianti, la realizzazione del nuovo vano scale con il nuovo ascensore, tutti quegli altri interventi insomma di carattere edilizio. I lavori si prevede di concluderli entro la fine dell'anno, salvo eventuali imprevisti imprevedibili. L'edificio sarà fruibile dal 2026, diventerà uno spazio per fini istituzionali e didattica di alta specializzazione. Il comune farà domanda al Ministero per la parte mancante di lavori, il restauro vero e proprio degli affreschi e le sistemazioni esterne, intervento quantificato in altri 3 milioni e mezzo di euro. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È ufficiale la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella all'inaugurazione dell'8 febbraio della Capitale Europea della Cultura sulla piazza della Transalpina a Nova Gorizia. L'appuntamento è stato inserito questa mattina nell'agenda del Quirinale. Si inaugura a Muggia alle 18 al Museo Ugo Carà la mostra 1954 Trieste, i confini di Muggia e la zona B, allestita dalla Lega Nazionale. Un'occasione per riflettere su una delle fasi storiche più complesse e sofferte del Novecento per questo territorio, attraverso immagini, documenti e cimeli. Trieste non sarebbe diventata la potenza commerciale che fu a partire dal 1700 senza l'apporto della grande comunità greca. Questo pomeriggio alle 17 c'è l'opportunità di visitare museo e archivio con le guide del Touring Club. Ci siamo andati in anteprima, guidati da Maria Cassotacchi. Mentre esploriamo la biblioteca e l'archivio della comunità greco-orientale, ci lasciamo avvolgere dal suono della lingua greca così piacevole e stranamente familiare. Non siamo in Grecia, ma è come se lo fossimo, a due passi dal mare, in riva 3 novembre, nel cuore di Trieste. Qui sono custoditi i documenti che attestano la storia dei greci a Trieste e la nascita stessa della comunità nel 1751 con il riconoscimento ufficiale dei privilegi concessi dall'imperatrice d'Austria Maria Teresa d'Asburgo e poi nel 1782 con la fondazione della comunità greca separata da quella serba. Benissimo. La comunità greca con i laboratori di cultura che è nato nel 2014 più o meno con tantissime attività e ha aperto le porte al pubblico italiano ovviamente, ma anche alle altre comunità di Trieste, che sapete che siamo multiculturali, insomma. E oltre alla scuola, comunque, che è la scuola greca per i nostri figli, abbiamo anche la scuola per gli adulti, che è una una scuola che conta più o meno 120 persone, dunque non di diversi livelli chiaramente, e la scuola poi ci sono le danze che sono per i greci ma anche per gli italiani, ci sono il cinema greco, il coro e non ecclesiastico, che è comunque quello che è professionale, ma il coro laico, diciamo, che è costituito da 22 persone più o meno, di cui 6 sono greci, gli altri sono italiani e cantano in greco. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo slavista e narratore Paolo Nori sarà stasera a Trieste alla libreria Lovat alle 18 per presentare il suo ultimo libro Chiudo la porta e urlo, edito da Mondadori. Il protagonista del suo romanzo è il poeta romagnolo Raffaello Baldini. Sempre a Trieste, al caffè libreria San Marco alle 18, Andrea Comisso presenta il suo libro Il mercante di Anticaglie. L'autore dialogherà con Stefano Sabini, letture di Sara Alzetta e Antonio Schiavulli. Nella pagina degli spettacoli c'è la musica. A Trieste il Teatro Verdi ospita il primo appuntamento dell'anno per la stagione della Società dei Concerti. Si tratta di un autentico avvenimento perché di scena alle 20:30 ci saranno i solisti della Camerata Salzburg che tornano dopo 40 anni di assenza. Il celebre ensemble che testimonia nel mondo la tradizione musicale della città di Mozart non proporrà naturalmente solo Mozart ma anche Hugo Wolf, un quartetto di Schubert e un ottetto di Mendelssohn Bartholdy. Prima del concerto alle 19:15 il pubblico avrà l'opportunità di incontrare gli artisti a ridotto del Verdi in un momento di dialogo e confronto condotto dal direttore artistico della SDC Marco Seco. E un altro appuntamento con la grande musica è quello al Teatro Verdi di Pordenone, che vedrà il debutto sul proprio palcoscenico dell'orchestra des Champs-Élysées diretta dal fiammingo Philippe Herrewege con la voce della soprano tedesca Judith Spitzer. Dedicato all'Aratto del Serraglio di Mozart, il secondo appuntamento con Fuoriscena, il ciclo di guide all'ascolto delle opere in scena al Teatro Verdi di Trieste nell'ambito del cartellone dei lunedì dello Schmidl. Saranno il regista Oscar Cecchi e Michele Suozzo, noto ex conduttore della trasmissione di Rai Radio 3 La Barcaccia, a raccontare l'opera anche con il contributo di brani musicali e video al Museo Schmidl alle 17:30. Questa è la settimana dedicata alla scrittura a mano. L'Associazione Grafologica Italiana, che ha una sezione a Trieste, dedica diversi appuntamenti per promuovere un'attività fondamentale per lo sviluppo psicomotorio, soprattutto in un'epoca nella quale si utilizzano in prevalenza tastiere e touchscreen. La scrittura è il gesto finomotorio più specifico che compiamo, è il prodotto del nostro cervello. Gli impulsi nervosi partono dall'area corticale e raggiungono la mano. Scrivere a mano aiuta ad esprimere il mondo interiore, le potenzialità di una persona, un'attività che contribuisce allo sviluppo cognitivo e creativo, soprattutto dei bambini. La grafologa Nicoletta Suppini. Se lo scrivere è un atto che comporta dei movimenti ben specifici, quindi il cervello va sollecitato e allenato costantemente, quindi una palestra in buone parole, mentre digitare sulla tastiera, se io devo digitare una lettera A, so già dove c'è il tastino della lettera A piuttosto che della S, piuttosto che della M. La grafologia è utilizzata anche in ambito giudiziario. Non si è ancora arrivati al punto di dire tu scrivi così quindi andrai a ammazzare qualcuno, ecco, questo sicuramente no. A posteriori possiamo rilevare che le scritture di serial killer o comunque di assassini contengono degli elementi, soprattutto riguardo allo spazio grafico, molto spesso comuni, una forte anaffettività, dei fogli molto pieni di nero, quindi il nero è la traccia grafica che noi lasciamo. Quindi anche a livello ottico-visivo si vede questo annerimento dello spazio grafico che indica un atteggiamento non equilibrato di quella persona. Non esiste una bella o una brutta scrittura, sostengono i grafologi, che considerano bella la scrittura più spontanea. Quella che non va a ruota libera, che non si riesce a leggere, ma neanche quella bella compita, forbita, quella che noi chiamiamo fluida, quella che chiamiamo proprio accurata, spontanea, perché indica un approccio della persona anche nella vita più adattabile, ecco, a tutti gli eventi che gli si possa presentare. Trieste, Vaciucchi, GR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla pagina dello sport basket. Il trittico di successi delle regionali ha caratterizzato l'ultimo turno di campionato in Serie A e in A2. Nel massimo torneo la Pallacanestro Trieste ha superato in casa Pistoia 80-75, chiudendo il girone d'andata al settimo posto. Gli infortuni a Ruzier e Ross hanno consentito a Stefano Bossi di dare il proprio contributo sul campo nella sua ultima partita di questa stagione in biancorosso. Il giocatore, una bandiera per il club con le sue oltre 100 presenze nella squadra della propria città, passa infatti a Orzi Nuovi in A2. Bossi lo ha detto ai compagni nello spogliatoio a fine match e poi lo ha confermato in conferenza stampa poco fa il comunicato ufficiale della Pallacanestro Trieste. Ma sentiamo le parole del giocatore. Sentivo l'esigenza di tornare ad avere delle grosse responsabilità in campo. Questi ultimi anni ho sacrificato un po' quello che era per me il mio ego, il mio minutaggio per arrivare a un risultato come è stato quello scorso della promozione o l'anno prima ancora per giocare in A1. E quest'anno la mia idea era quella di portare a termine questa stagione, però dentro di me sentivo che facevo fatica a non avere spazio. Quindi niente, spero che mi seguiate, io seguirò sempre voi e sono veramente felice di aver fatto parte di tutto questo. In A2 doppietta per Apo Udine, Olual West e Gesteco Cividale, che vincono rispettivamente in casa con Verona 86-70 e a Forlì 82-79. E ora dal secondo e dal quarto posto in classifica guardano al derby di mercoledì al Carnera. Le aspettative del presidente dell'Apo Udine, Alessandro Pedone, e del coach di Cividale, Stefano Pillastrini. Con una difesa così si può andare molto avanti. Adesso questo è un campionato durissimo dove bisogna ragionare di partita e partita. Ci aspetta un derby che abbiamo perso di un tiro all'andata. Quindi in un Carnera fino ad oggi inviolato contro una Cividale che comunque mi pare che stesse vincendo e quindi comunque non fa che consolidare la propria posizione in classifica. Noi pensiamo alla nostra di classifica e stiamo concentrati sulla partita di mercoledì che comunque alla fine vale 2 punti e questo bisogna ricordarlo. Sono molto molto contento, l'ho già detto un po' di volte, ma perché è la verità. E adesso dobbiamo avere la stessa bravura, perché fra 3 giorni abbiamo una partita che chiaramente per noi le motivazioni, lì non ci sarà problema di rilassamento, perché è chiaro che giochi a Udine, un derby, le extra motivazioni sono tante. Però non sarà facile in 3 giorni riciclarsi e mantenere quell'umiltà e quell'atteggiamento di sapere che giochiamo contro squadre che hanno un'esperienza e un chilometraggio, diciamo, nettamente più lungo del nostro. Poi saremo ancora senza Miani, come oggi, e quindi abbiamo comunque tante difficoltà. Però il talento e la voglia di vincere, la compattezza di questa squadra è speciale e quindi vogliamo anche mercoledì sera fare una grande prestazione e cercheremo di recuperare tutte le energie per farla. Ciclocross, il maianese Stefano Viezzi ha conquistato il titolo italiano Under 23 ai campionati tricolori che si sono svolti a Oderzo. Vincitore lo scorso anno della Coppa del Mondo Juniores, il 18enne Viezzi è al primo anno nella categoria superiore. A Oderzo ha preceduto il perugino Scappini e il veronese Pra. Al quarto posto si è classificato il pordenonese Tommaso Caffueri. Nella gara juniores vinta dal veneto Patrick Pezzo Rosola, il codroipese Ettore Fabbro ha conquistato l'argento e Filippo Grigolini del James Bike Team di Bui ha preso il bronzo. Entrambi avevano vinto il tricolore tra gli allievi negli anni passati. Ciclismo, sarà presentato stasera ufficialmente a Roma il percorso del Giro d'Italia 2025 che partirà l'8 maggio dall'Albania. Prime 3 tappe all'estero e poi trasferimento in Puglia per la frazione Albero Bello Lecce. 2 le tappe nella nostra regione, il 24 maggio partenza da Treviso, passaggio a Cormons e una 20 chilometri sul Collio con transiti a Medana, San Floriano, Oslavia e Gorizia prima dell'arrivo sulla piazza Transalpina a Nova Gorizia, omaggio alla capitale europea della cultura. Il giorno seguente la Fiume Veneto Asiago di 214 chilometri che prevede anche l'ascesa al Monte Grappa. Con la campagna di sensibilizzazione Insieme oltre il buio e il silenzio, sostenuta da RAI per la sostenibilità e ESG, da oggi al 19 gennaio la Fondazione Lega del Filo d'Oro rilancia il proprio impegno nel promuovere un futuro più inclusivo e privo di barriere affinché ogni persona sordocieca possa autodeterminarsi e vivere una vita dignitosa e autonoma. Creare un mondo più accessibile significa abbattere ogni barriera architettonica, sensoriale, tecnologica, ma anche burocratica che rappresenti un ostacolo alla indipendenza. Ad esempio, le famiglie delle persone sordocieche chiedono che vengano eliminati i vincoli territoriali che impediscono di rivolgersi a strutture specialistiche fuori regione, garantendo così la libertà di scegliere i servizi più adeguati e specializzati per rispondere a bisogni complessi dei loro figli. Per maggiori informazioni sulla Fondazione Lega del Filo d'Oro e il manifesto delle persone sordocieche è possibile visitare il sito insiemeoltre.it. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Riccardo Ostojic e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12:55 minuti, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.